Ciao a tutti, sono Sofia, sono una studentessa e al momento mi trovo nell'Interland di Milano. Mi rendo conto della mia fortuna in qualche modo rispetto a tanti altri che invece hanno già un lavoro, nel senso che io in qualche modo sarò costretta a rinunciare a delle interviste o a uno stage, però potrò sempre, cioè forse questo virus mi... Sarà appunto, forse mi farà lavorare in tempo perché sarò costretta a stare a casa e a leggere, leggere, leggere e scrivere, scrivere, scrivere. Quindi, con questo pensiero, il libro che ho scelto è Novecento, un monologo di Alessandro Baricco. E l'ho scelto perché penso che un po' questa nave che passa dall'Europa all'America su un oceano burrascoso, alle volte sereno, siamo un po' noi, in questo mondo di dentro, un mondo di fuori con cui dobbiamo fare i conti, e che in qualche modo dobbiamo imparare da Novecento, ad accontentarci di quel poco che del mondo di fuori riesce a entrare dentro la nostra piccola nave, che può diventare anche una prigione, e a assaporarlo poco per volta, come appunto faceva lui. Spero di avervi interessato alla lettura. Leggerò soltanto il primo pezzo iniziale, così che se qualcuno, così da non rovinare, diciamo. Se qualcuno vorrà vedersi anche il monologo teatrale è molto bello, quindi dei video su YouTube penso che li troverete. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire. Ci stavamo in più di 1.000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana e noi, eppure c'era sempre uno. Uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a 1.000 sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi. Verso la nave, verso tutti e gridava: L'America! Poi rimaneva lì, immobile, come se do avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America. La sera, dopo il lavoro, le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, un muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli era presa un po' la mano e aveva fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso. No, no, no. E nemmeno per una questione di diottrie. È il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene, già la vedevi, l'America. Già lì. Pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue, che ne so io, fino al cervello e lì dalla lingua, fin dentro quel grido. America! C'era già in quegli occhi di bambino tutta l'America lì ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Boodman TD Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Io ne ho viste di Americhe, 6 anni su quella nave, 5, 6 viaggi ogni anno dall'Europa all'America e ritorno, sempre a mollo nell'oceano. Quando scendevi a terra, non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo, lui, ma tu continuavi ad ondolare. Perché da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano. Quando c'ero salito, avevo 17 anni e di una sola cosa mi fregava nella vita, suonare la tromba. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo, il Virginian, giù al porto, io mi misi in coda. Io e la mia tromba. Gennaio 1927. Li abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi mise a suonare. Lui se ne stette lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola. Poi mi chiese: cos'era? Non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Poi fece una cosa strana con la bocca, forse era un sorriso. Aveva un dente d'oro proprio qui, così in centro che sembrava l'avesse messo in vetrina per venderlo. Ci vanno matti per quella musica lassù. Lassù voleva dire sulla nave, e quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo 3, 4 volte al giorno. Prima per i ricchi della classe lusso e poi per quelli della seconda, e ogni tanto si andava da quei poveracci degli emigranti e si suonava per loro, ma senza la divisa, così come veniva, e ogni tanto suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura, suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire, ti senti Dio. Suonavamo il ragtime perché è la musica su cui Dio balla quando nessuno lo vede, su cui Dio ballava se solo era negro. E volevo dire che, inoltre, pensando ai flash mob che ci sono in questo periodo, la gente che fa i concerti sui i balconi, alle finestre, insomma, penso che la musica e questo modo di condividerla possa aiutarci in questo momento. Grazie a tutti.